Si avvicinavano le feste e bisognava organizzare qualcosa. I Boast e gli Ingalls avevano sempre cercato di trascorrerle insieme, il pranzo del giorno del ringraziamento dai Boast e quello di Natale dagli Ingalls. Ora che c'era la nuova famiglia di Laura e Melly, si decise di aggiungere una festa. Avrebbero trascorso il Capodanno tutti insieme dai Wilder. Considerato come era andato il raccolto, non era il caso di spendere soldi per i regali di Natale, ma Melly costruì due slittini per le sorelline di Laura. E ci sarebbero state caramelle per tutti. Loro due decisero di farsi un unico regalo insieme, qualcosa che potessero usare entrambi. Dopo lunghe consultazioni del catalogo di Montgomery Ward, scelsero un servizio da tavola. Ne avevano comunque bisogno e ce n'era uno di vetro lavorato, molto grazioso, che comprendeva zuccheriera, portacucchiai, burriera, sei piattini e un vassoio ovale per il pane. Il vassoio era decorato con un motivo di spighe e le parole «Dacci oggi il nostro pane quotidiano». Quando la scatola arrivò da Chicago qualche giorno prima di Natale, ne furono estasiati. Le feste passarono in fretta e in febbraio Laura compì 19 anni. Siccome il compleanno di Melly, che ne compiva 29, cadeva una settimana dopo, festeggiarono insieme la domenica. Fu una festa semplice, con una grossa torta di compleanno che valeva per tutti e due, la tavola apparecchiata con cura e qualche attenzione in più nella preparazione del semplice pasto di pane, carne e verdure di sempre. Laura era diventata una brava cuoca. Le veniva bene, soprattutto il pane. Tra lavoro e divertimento, tra giorni di sole e bufere di neve, passò l'inverno. Non accadeva spesso che andassero a trovare qualcuno o ricevessero visite, perché non avevano vicini, a parte i Larsen, che stavano appena di là della strada. Ma Laura non si sentiva sola. Le piaceva la sua casetta e le faccende di casa non le pesavano. E poi c'erano sempre Shep e il gatto, e andare dai cavalli e dalle vacche nella stalla era un po' come andare a trovare dei vicini. Quando Trixie le leccava la mano o le posava il muso sulla spalla o quel malandrino di Skip le cercava una zolletta di zucchero in tasca, le pareva di non aver bisogno di altri amici. Finalmente cominciarono a tornare le oche dal sud. Volavano da un lago all'altro, scendevano a riposare sull'acqua e a pascolare sulle rive. Il terreno era sgombro dalla neve e sebbene le notti fossero ancora fredde e il vento spesso pungente, il sole era tiepido. Era arrivata la primavera. Melly stava mettendo in ordine aratri ed erpici per lavorare il terreno da seminare a frumento e avena. Doveva cominciare presto perché nella sua concessione aveva 100 acri a frumento e 50 ad avena. Nella baracca che usavano come magazzino, Laura gli teneva aperti i sacchi mentre lui li riempiva di frumento con la pala. Da lì poi li portava nel fienile di casa per averli sotto mano al momento della semina. La baracca era gelida, i sacchi erano ruvidi e pesanti e dal frumento si levavano nuvole di polvere. A Laura girava la testa, furia di fissare tutti quei chicchi che si infilavano nel sacco, ma se distoglieva lo sguardo, gli occhi le correvano irresistibilmente ai fogli di giornale incollati sulle pareti e le veniva da leggere e rileggere le parole che c'erano sopra. La irritava assurdamente il fatto che alcuni fossero capovolti, ma lei si sentisse costretta a leggerli lo stesso. Non riusciva a staccare gli occhi. Parole, parole, il mondo era pieno di parole e di chicchi di frumento che scivolavano nell'imboccatura dei sacchi. A un certo punto sentì Melly dire: «Siediti un momento, sei stanca». Sedette, ma non era stanca, aveva la nausea. L'indomani mattina stava ancora peggio e Melly dovette prepararsi la colazione da sé. Per giorni, ogni volta che si alzava, si sentiva svenire. Il medico le ordinò di restare a letto. In breve avrebbe cominciato a stare meglio e nel giro di qualche mese, 9 per essere precisi, sarebbe stata benissimo. Aspettava un bambino. E dunque era quello. Beh, non doveva tirarsi indietro, doveva fare quello che c'era da fare in casa perché Melly potesse lavorare nei campi. Era troppo importante il raccolto di quell'anno e soldi per pagare qualcuno che l'aiutasse non ce n'erano. Laura cominciò dunque a trascinarsi per la casa, facendo quello che riusciva e stendendosi appena possibile per qualche minuto per alleviare le vertigini. Ciononostante, la casa assunse un aspetto un po' trasandato perché lei non poteva dedicarle tutte le cure di un tempo. Mentre lavorava così faticosamente, le capitava ogni tanto di sorridere amaramente tra sé, ricordando un detto di sua madre: «Chi vuol ballare deve pagare i suonatori». Lei stava pagando, sì, ma avrebbe fatto quello che le competeva lo stesso. Anche poco, ma la sua parte voleva farla, nonostante tutto. Il bosco non cresceva come avrebbe dovuto. La siccità dell'estate precedente aveva messo a dura prova i giovani alberi che ora avevano bisogno di molte più attenzioni del solito. Perché loro potessero riscattare quella proprietà a tempo debito, bisognava che su quei 10 acri di terra fosse cresciuto nel giro di qualche anno quel dato numero di piante. Perciò Melly arava anche là e nutriva ogni pianticella con il concime della stalla. Quell'anno per Laura non vi furono corse in calesse sull'erba novella della prateria nell'aria fresca d'inizio primavera. Non vide neppure le viole, là dove crescevano così fitte da profumare tutta l'aria intorno. Ma quando fu il tempo delle rose selvatiche, in giugno, poté finalmente uscire sul calesse trainato da Skip e Barnum per le strade della prateria, dove i cespugli erano tutti una macchia di colore, dal rosa pallido al rosso intenso, e l'aria era piena del loro profumo. Durante una di quelle passeggiate, dopo un momento di silenzio, di punto in bianco chiese: «Come lo chiameremo il bambino?» «Beh, non possiamo deciderlo adesso», disse Melly, «perché non sappiamo se sarà maschio o femmina». Dopo qualche istante Laura disse: «Sarà una bambina e si chiamerà Rose». Piove molto quella primavera, piove anche durante l'estate e gli alberelli si rinfrancarono, sventolavano le loro foglioline verdi nel vento e si facevano di giorno in giorno più alti e robusti. L'erba della prateria cresceva ovunque sul terreno asciutto e la vegetazione palustre prosperava negli avvallamenti dove si stendevano gli acquitrini. E oh, come crescevano bene il frumento e l'avena, perché pioveva. I giorni passavano e il frumento era alto e dritto, verde e bello. I chicchi si gonfiarono e a breve sarebbe stata ora di mietere. Se anche adesso fosse subentrato un periodo secco, ormai il grano era maturo e raccolto abbondante. E finalmente, un giorno di maggio, Melly tornò dai campi dicendo che era arrivato il momento di mietere. Il frumento era perfetto, avrebbe reso 40 sacchi l'acro ed era della migliore qualità. Sarebbe andato sui 75 centesimi a staio, come minimo, con consegna al silo in paese. «Te l'avevo detto che tutto va in pari a questo mondo», disse. «I ricchi hanno il ghiaccio d'estate e i poveri ce l'hanno d'inverno», rideva. E anche Laura rise con lui. Era meraviglioso. Al mattino Melly andò in paese a comprare una mietilegatrice. Aveva aspettato fino ad avere la certezza di un buon raccolto perché era una macchina che costava $200. Avrebbe pagato la metà della somma quando avesse venduto il frumento e l'altra metà dopo la mietitura dell'anno successivo. Sulla seconda rata c'era solo l'8% di interesse e a garanzia del debito poteva ipotecare la macchina stessa e le vacche. Uscì presto perché voleva essere di ritorno in tempo per cominciare a mietere in giornata. Laura si sentì gonfiare il cuore di orgoglio quando lo vide tornare con la nuova macchina. Uscì a guardarlo attaccare i 4 cavalli. Melly disse che avrebbe cominciato a mietere l'avena, che era più matura. Tornando in casa, Laura fece qualche conto a mente. 100 acri a 40 staia di frumento all'acro facevano 4.000 staia. 4.000 staia a 75 centesimi lo staio facevano. Quanto veniva? Prese la matita. 4.000 staia a 75 centesimi lo staio facevano circa $3.000. Ah, impossibile! Ma sì, era giusto! Dunque, sarebbero diventati ricchi! Eccolo il ghiaccio dei poveri! Avrebbero pagato la falciatrice, il voltafieno che Melli aveva comperato l'anno prima e che non aveva potuto pagare perché l'annata non era andata bene abbastanza. Ora, finita la mietitura, si sarebbero liberati delle due cambiali da $75 e da $40 e dell'ipoteca su Skip e Barnum. Le due cambiali non la turbavano più di tanto, ma l'angustiava l'ipoteca sui cavalli. Era come quasi avere un'ipoteca su Melli. Comunque tra poco l'avrebbero chiusa e avrebbero saldato anche il debito dell'aratro a seggiolino con la relativa ipoteca sulle vacche. Doveva esserci anche qualche conto in sospeso nelle botteghe del paese, ma di questo non era sicura. Non potevano essere grosse cifre comunque. Magari avrebbe potuto anche far venire qualcuno ad aiutarla nelle faccende di casa finché non fosse nato il bambino. Così finalmente avrebbe riposato davvero. Ne aveva tanto bisogno perché raramente riusciva a trattenere il cibo nello stomaco per più di qualche minuto e perciò era molto deperita. Che Che sogno avere qualcuno che cucinasse. L'odore del cibo le dava sempre la nausea. Quel giorno, con la nuova metilegatrice McCormick, Molly riuscì a mietere tutti i 50 acri di avena. La sera era felice, era avena della miglior qualità e l'indomani mattina all'alba aveva intenzione di cominciare con il frumento. Il giorno dopo, però, dopo aver fatto due giri del campo, staccò i cavalli e tornò a casa. Disse che conveniva aspettare ancora un paio di giorni che il frumento ne avrebbe guadagnato. Si era accorto che non era ancora perfettamente maturo e non voleva correre il rischio, tagliando troppo presto, di ritrovarsi con un grano non del tutto pieno, perché era ancora più pesante di quanto credeva. Scommetteva che ne sarebbero uscite più di 40 staia per acro. Laura era impaziente, aveva fretta di vedere il frumento tagliato e messo al sicuro. Dalla finestra guardava la scintillante macchina nuova sul bordo del campo e le pareva che anche lei fosse impaziente di mettersi al lavoro. Quel pomeriggio, dopo pranzo, passarono i DeVoe, una coppia della loro età che si era sposata poco dopo di loro. Walter doveva andare in paese e Cora aveva pensato di fermarsi da Laura nel frattempo. Erano buone amiche e il pomeriggio trascorse piacevolmente, nonostante quella strana sensazione di urgenza da cui Laura non riusciva a liberarsi. Faceva un gran caldo. Stranamente non c'era un alito di vento. L'afa era pesante, si aveva quasi la sensazione di non riuscire a respirare. Intorno alle 3, Melly rientrò dalla stalla dicendo che sarebbe piovuto. Per fortuna non aveva cominciato a mietere, così non gli sarebbe rimasto il frumento in terra a prendere acqua inutilmente. Il sole si oscurò, il vento si levò brevemente, poi cadde di nuovo e il cielo si fece nero. Poco dopo salì di nuovo il vento, l'aria si schiarì, ma la luce prese una strana sfumatura verdognola e arrivò la tempesta. Cadde qualche goccia di pioggia, poi cominciò la grandine, prima rada, un chicco qua, uno là, poi sempre più fitta, con chicchi sempre più grossi, finché ne vennero giù di grandi come uova. Melly e Cora guardavano dalla finestra. Non si vedeva granché a parte la pioggia e la grandine. Videro però Ole Larsen di là dalla strada farsi sulla soglia e uscir fuori. Non aveva fatto un passo che piombò a terra e qualcuno da dentro lo afferrò per i piedi e lo tirò in casa in fretta e furia. Poi la porta si richiuse. Che idiota, disse Melly. Si sarà preso uno di quei chicchi in testa. La tempesta si esaurì in 20 minuti, ma quando riuscirono a vedere di nuovo fino al campo di frumento, la macchina era ancora là, ma il frumento era tutto schiacciato a terra. Mi sa che si è portata via il raccolto, mormorò Melly. Laura non riuscì a dire nulla. Poi Melly andò dai vicini a sentire che cosa era successo a Ole Larsen e tornò pochi minuti dopo dicendo che Larsen era uscito perché aveva visto cadere un chicco di grandine così grosso che voleva misurarlo, e in quel mentre un altro chicco altrettanto grosso l'aveva preso in testa. Quando l'avevano tirato in casa era rimasto privo di sensi ancora per qualche minuto, ma ora stava bene, a parte il bitorzolo sul cranio. E ora facciamoci un po' di gelato, disse Melly. Laura, prepara la crema, io vado a raccogliere la grandine per il ghiaccio. Laura si rivolse a Cora, che era rimasta a guardare fuori dalla finestra senza dire una parola. Sei in vena di far festa tu, Cora? No, rispose Cora. Voglio andare a casa a vedere che cosa è successo da noi. Mi resterebbe nella strozza il gelato. La tempesta era durata solo 20 minuti, ma aveva lasciato un mondo desolato, grondante d'acqua e devastato dalla grandine. Finestre senza zanzariere erano state trovate con i vetri rotti. Se c'era la zanzariera era spaccata e contorta. Il suolo era coperto da uno strato di grandine che pareva un lenzuolo di ghiaccio. Tanto era spesso e uniforme. E c'erano addirittura punti in cui la grandine si era accumulata come neve portata dal vento. Gli alberelli erano rimasti senza rami né foglie. Un sole pallido e acquoso illuminava quella rovina. La rovina, pensava Laura, di un anno di lavoro. Un anno di speranze, di sogni, di una vita più serena e gradevole. Beh, così non aveva da mettere a tavola i trebbiatori. Come diceva sempre mamma, non c'è nessuna grande perdita che non porti anche un piccolo vantaggio. Ma la irritò che le fosse venuto da pensare a quel minimo vantaggio. Restarono lì sedute, lei e Cora, pallide e mute, finché Walter fermò il carro davanti alla porta, aiutò Cora a salire e se ne andarono quasi senza salutare. Tanta era la fretta e l'ansia di scoprire che cosa era successo a casa loro. Melly andò a vedere in che stato era il frumento e tornò con la faccia scura. Non c'è niente da mietere, disse. È già tutto battuto e pestato nel fango. $3.000 di frumento, tutto seminato nella stagione sbagliata. Laura mormorò tra sé. Il povero. Che hai detto? Chiese Melly. Dicevo solo, rispose Laura, che questa volta il povero ha avuto il ghiaccio d'estate. Il giorno dopo, alle 2 del pomeriggio, qua e là c'erano ancora mucchietti di grandine nella concavità del terreno. Ma anche se tutti i progetti erano infranti, bisognava raccogliere i cocci e rimetterli insieme in qualche modo. Stava per arrivare l'inverno. Bisognava comprare il carbone per scaldarsi nei mesi freddi ed erano tra i 60 e i $100, e comprare il frumento per le semine della primavera successiva e pagare le cambiali delle macchine. C'era la mietilegatrice che era stata usata per tagliare solo 50 acri di avena. E poi c'erano l'aratro a seggiolino, la falciatrice, il voltafieno e la seminatrice con cui erano stati seminati i campi in primavera e il nuovo carro. E poi c'erano i $500 di debiti che risalivano alla costruzione della casa. $500 di debito sulla casa, esclamò Laura. Di questo non sapevo niente. No, disse Melli. Non mi pareva necessario darti anche questa preoccupazione. Bisognava trovare una soluzione. E l'indomani mattina lui sarebbe andato in paese a vedere che cosa si poteva fare. Forse poteva ipotecare la concessione, almeno quella, per fortuna, era roba sua. Il lotto a Bosco non era ipotecabile perché apparteneva ancora allo zio Sam finché Melly non avesse fatto crescere gli alberi. E a Laura parve di sentire suo padre canterellare. Lo zio Sam è ricco abbastanza da dar terra a tutti e ancor ne avanza. A volte a Laura pareva di avere la testa che girava, ma quei $500 di debito di cui non sapeva nulla l'avevano quasi stordita. 500 più 200 facevano 700 e il carro e la falciatrice. Oh, doveva smettere di fare i conti o sarebbe impazzita. Melly tornò dicendo che pagando gli interessi poteva rinnovare le cambiali sulle macchine. Poteva addirittura pagare la prima rata della mietilegatrice dopo il raccolto dell'anno successivo e rimandare la seconda all'anno dopo ancora. Inoltre, poteva vendere tutto il fieno che riusciva a fare a $4 la tonnellata con consegna alla stazione. Gli acquirenti lo compravano per spedirlo a Chicago. La concessione invece non era ipotecabile, a meno che loro ci andassero a vivere. Di quei soldi però avevano bisogno per pagare gli interessi, per le spese vive e per comprare le sementi. Quindi non c'era altro da fare che trasferirsi laggiù. In quel modo, ipotecando la proprietà, poteva mettere insieme $800. Aveva anche trovato da vendere Kate e Bill per qualcosa in più di quello che gli erano costati. Loro non ne avevano più bisogno perché c'era chi avrebbe preso il lotto a Bosco in compartecipazione se le sementi le metteva lui. Con una sola proprietà da lavorare bastavano Skip e Barnum, perché in testa poteva attaccare Trixie e Fly. Se il lotto a Bosco lo lavoravano altri, lui poteva coltivare estensioni maggiori nella sua concessione, sicché alla fine avrebbe tratto di più dalle due proprietà che se le avesse lavorate entrambe da solo. Per trasferirsi laggiù bisognava però ingrandire la baracca che c'era già, ma si sarebbero arrangiati con una sola stanza e la cantina scavata sottoterra in modo da continuare a usare l'edificio esistente come magazzino. Così fu deciso. Melly si dedicò subito a raccogliere l'avena abbattuta dalla grandine perché la si poteva dar da mangiare alle bestie. La paglia d'avena forniva un buon sostituto del fieno e il fieno così lo poteva vendere tutto. Quando ebbe raccolto tutta l'avena recuperabile e l'ebbe sistemata in pagliai, Melly scavò il buco che doveva fungere da cantina e ci costruì sopra, addossata alla baracca già esistente, la stanza dove avrebbero abitato. Poi costruì la struttura portante di un fienile e ci ammassò tutt'attorno, a mo' di pareti, una grande quantità di balle di fieno, palustre. Così ebbero anche un luogo dove ricoverare le bestie. Come fu pronto il fienile, si trasferirono. Era il 25 agosto, erano passati l'inverno e l'estate del primo anno. Il secondo anno. Il giorno in cui Laura e Melly si trasferirono nella baracca sulla concessione, il 25 agosto 1886, il tempo era splendido. Bella giornata, proprio come quando ci siamo sposati un anno fa. Anche oggi è un nuovo inizio, come allora. Una casa nuova, seppure più piccola. Andrà tutto bene ora, vedrai. Alla fine i conti tornano sempre. Il ricco. Melly tacque, lasciando la frase a metà, ma Laura non poté fare a meno di pensare alla conclusione del proverbio irlandese: il ricco ha il ghiaccio d'estate, il povero ce l'ha d'inverno. Loro lo avevano avuto il ghiaccio d'estate, in forma di grandine. Inutile stare a rimuginarci sopra ora. C'era da sistemare la nuova casa, renderla allegra e confortevole per Melly. Povero Melly, era dura per lui, che ce l'aveva messa tutta. La casa comunque non era male. La nuova e unica stanza era stretta, 12 piedi per 16 e non molto lunga, ma era orientata a sud, con la porta e una finestra che si aprivano su un piccolo portico, chiuso sul lato ovest dalla parete della baracca preesistente. C'era una finestra anche a est. Lì accanto, nell'angolo a sud, era appeso lo specchio con il tavolino del soggiorno sotto. Dall'altra parte della finestra arrivava contro la parete la testata del letto che era sistemato lungo il lato nord. All'altro angolo, in fondo al letto, c'era la stufa di cucina con un armadietto accanto. Il tavolo era infilato nell'angolo tra la parete ovest e la parete sud. Il tappeto della vecchia camera da letto copriva la parte di pavimento sotto la finestra est e lì sopra c'erano la poltrona e la piccola sedia a dondolo di Laura, vicine vicine. Al mattino il sole entrava da quella finestra e illuminava tutta la stanza. Era una casettina minuscola ma confortevole. La baracca preesistente, anch'essa costituita da un'unica stanza, era adibita a magazzino, mentre alle bestie era destinato il nuovo fienile, che era protetto a nord e a ovest dal pendio del Dosso su cui sorgeva la casa e aveva l'ingresso rivolto a sud, sicché sarebbe stato abbastanza caldo anche d'inverno. Tutto laggiù era nuovo e fresco. Il vento faceva ondeggiare le alte erbe della palude che dai piedi del Dosso dietro il fienile si stendeva a sud e fino al confine orientale della proprietà. La casa sorgeva sulla sommità di quella bassa collinetta, perciò avrebbe sempre avuto davanti una verde distesa di vegetazione selvatica. La terra arabile era tutta a nord e dalla casa non si vedeva. Laura se ne rallegrava, le piaceva che la vista spaziasse sulla prateria. A dire il vero, per il momento tutta la proprietà era un'unica immensa distesa di erba, salvo per un campo, cioè quei 10 acri di terreno che Melli aveva dovuto coltivare per poter riscattare la concessione. Ma la porzione di prateria nord della casa era tutto terreno asciutto e ci cresceva ottima erba da foraggio, non quella alta e coriacea che prosperava negli avvallamenti paludosi. Era tempo di falciare i prati e ogni giorno era prezioso per accumulare quanto più fieno possibile. Quell'anno, con il disastro che aveva fatto la grandine, da raccogliere non restava che il fieno, perciò, già all'indomani del trasloco, appena ebbero finito di fare colazione, Melly attaccò Skip e Barnum alla falciatrice. Laura rimandò le faccende per andare a vedere l'inizio del lavoro e poiché l'aria era fresca e il profumo dell'erba appena tagliata così buono e pulito, se ne andò a zonzo qua e là per i prati, raccogliendo girasoli selvatici. Poi tornò lentamente a casa perché aveva tutto ancora da fare. Non le andava di stare al chiuso, le sarebbe toccato comunque più avanti quando fosse nato il bambino. All'aria aperta si sentiva molto meglio, sicché faceva il minimo necessario in casa e stava il più possibile fuori, nei prati.